Capitolo 29. Il ballo era ormai cosa passata e anche la prima colazione del giorno seguente fu presto consumata. L'ultimo bacio fu dato e la partenza di William fu un fatto compiuto. Mr. Crawford era giunto, come aveva promesso, molto puntuale e il pasto era stato rapido e piacevole. Dopo aver seguito con lo sguardo il fratello fino all'ultimo istante, Fanny tornò nel tinello col cuore gonfio a sfogare il suo dolore e lo zio gentilmente la lasciò sola a piangere in pace, pensando forse che le sedie vuote dei due giovanotti potevano suscitare in lei un sentimento di tenera esaltazione e che gli ossi delle costolette di maiale o la senape rimasti sul piatto di William non potevano che associare quel tenero sentimento ai gusci delle uova rimasti nel piatto di Mr. Crawford. Fanny restò seduta e pianse con amore, come pensava lo zio, ma con amore fraterno, solo fraterno. William era partito e lei aveva l'impressione di aver sprecato metà della sua visita abbandonandosi a oziose preoccupazioni ed egoistiche sollecitudini che non avevano nulla a che fare con lui. Tale era l'indole di Fanny che non poteva pensare nemmeno alla zia Norris, che, imponendosi la più rigida economia, viveva sola e senza gioie nella sua casetta, senza rimproverarsi una qualche mancanza di attenzione nei suoi riguardi durante i loro quotidiani incontri. Ancora meno perciò poteva perdonarsi di non aver fatto o detto o pensato nei riguardi di William durante quei 15 giorni tutto ciò che avrebbe dovuto. Quella prima giornata fu pesante, malinconica. Quasi subito dopo aver fatto colazione con i familiari, anche Edmund disse loro addio per una settimana e salì a cavallo diretto a Petersburg. Ecco, tutti se n'erano andati. Della notte scorsa non le rimaneva che il ricordo e non aveva nessuno con cui rievocarlo. Ne parlò con la zia Bertram, doveva parlare con qualcuno del ballo, ma la zia aveva visto così poco di quanto le si svolgeva intorno, aveva così scarsa curiosità in proposito, che l'intrattenersi con lei fu una vera fatica. Lady Bertram non aveva nessuna idea di come fossero vestite le altre signore o del posto occupato, al massimo ricordava la sua acconciatura e il suo posto. Non riusciva a rammentare quel che aveva udito dire circa una delle signorine Maddox o che cosa Lady Prescott avesse lodato in Fanny. Non era molto sicura se il colonnello Harrison avesse parlato di William o di Mr. Crawford, quando aveva detto che quello era il più bel giovanotto nella sala. Qualcuno le aveva sussurrato qualche cosa, ma lei aveva dimenticato di chiedere a Sir Thomas di che si trattasse e questi furono i suoi più lunghi discorsi e i suoi più chiari commenti. Il resto si ridusse a un languido «Sì, sì, benissimo, davvero l'hai fatto? Davvero lui l'ha fatto? Non ho visto quel che dici, non saprei riconoscere l'uno dall'altro». Fu tutto molto deludente. Era solo meno peggio di quanto sarebbero state le malevole repliche di Mrs. Norris. Ma poiché questa se n'era tornata a casa, portando via tutte le gelatine avanzate, per curare una cameriera ammalata, naturalmente, nel piccolo gruppo di famiglia regnarono la pace e la calma, tutto lì. La sera fu tanto pesante quanto l'era stata la giornata. «Oh, non so proprio cos'ho», disse Lady Bertram dopo che le porcellane del tè furono portate via. «Mi sento completamente imbambolata. Deve essere perché sono stata su così tardi la notte scorsa». «Fanny, devi fare qualcosa per tenermi sveglia, non riesco a lavorare. Prendi le carte, mi sento così imbambolata». Le carte furono tirate fuori e Fanny giocò a cribbage con la zia fino all'ora di andare a letto. E poiché Sir Thomas era intento a leggere in assoluto silenzio, non una parola fu pronunciata durante le due ore successive, all'infuori di quelle richieste dal conteggio dei punti. «E con questo fa 31, 4 in mano e 8 in culla. Tocca a lei far le carte, signora. Devo distribuirle al posto suo?» Intanto Fanny continuava a pensare a quanta differenza 24 ore avevano operato in quella stanza e in tutta quella parte della casa. La sera prima tutto era stato speranza e sorriso, trambusto e movimento, rumore e brio in salotto e fuori e ogni dove. Ora tutto era languore, quasi il deserto. Una buona notte di riposo valse a migliorare le sue condizioni di spirito. Il giorno che seguì la partenza del fratello, seppe pensare a William più serenamente e siccome quella stessa mattina le offrì l'opportunità di commentare con Mrs. Grant e Miss Crawford lo scorso giovedì in bello stile e con tutti i voli di fantasia e le opportune giocose risate, così essenziali a ridar vita al fantasma di un ballo ormai scivolato via nel passato, poté ricondurre la mente nell'alvo quotidiano senza sforzo eccessivo e adeguarsi all'assenza di eventi nella settimana. formavano il più piccolo gruppo di cui avesse mai fatto parte per un'intera giornata, e colui che più di tutti aveva contribuito a imprimere un tono disinvolto e allegro in ogni loro riunione familiare o durante i pasti, era assente. Ma doveva imparare a conformarsi a questo nuovo stato di cose. Ben presto egli se ne sarebbe andato definitivamente, e lei ora doveva accontentarsi di poter sedere in una stessa stanza con lo zio, udire la sua voce, ascoltare le sue domande e perfino rispondervi senza quel penoso senso di smarrimento conosciuto in passato. «I nostri due giovanotti ci mancano», fu quanto osservò Sir Thomas, sia il primo sia il secondo giorno, mentre formavano il loro ridottissimo cerchio dopo il pranzo. E, osservando gli occhi pieni di lacrime di Fanny, il primo giorno non aggiunse altro e si limitò a bere alla loro salute, ma il secondo giorno si spinse un po' più in là e William fu amabilmente lodato e la sua promozione auspicata. «E non vi è ragione di supporre», disse Sir Thomas, «che ora le sue visite qui non debbano essere abbastanza frequenti, in quanto a Edmund dobbiamo imparare a fare a meno di lui. Questo sarà l'ultimo inverno in cui sarà nostro come lo è stato fino a questo momento». «Sì», disse Lady Bertram. Ma vorrei proprio che non se ne andasse. Se ne stanno andando tutti, mi pare. Vorrei che rimanessero a casa. Esprimendo questo desiderio, pensava principalmente a Giulia, che il giorno prima aveva scritto per chiedere il permesso di recarsi a Londra con Maria. E poiché Sir Thomas riteneva che fosse meglio per tutte e due le figlie acconsentire, Lady Bertram, che docile come sempre non pensava nemmeno di opporsi, lamentava tuttavia quel cambiamento di programma senza il quale Giulia sarebbe tornata proprio in quei giorni. Seguì da parte di Sir Thomas un ragionamento pieno di buonsenso tendente a riconciliare la moglie con la nuova decisione. Le elencò tutto quello che un genitore responsabile dovrebbe prendere in considerazione quando si tratta dei figli. Attribuì alla natura di lei tutta la gioia che una madre affettuosa deve provare nel contribuire al loro piacere. Con un placido sì. Lady Bertram concordò con tutto quanto diceva il marito e, dopo aver riflettuto in silenzio per una quindicina di minuti, osservò spontaneamente: Sir Thomas, ci ho pensato, sono molto contenta di aver preso Fanny come abbiamo fatto, poiché ora che le altre due sono via sentiamo tutti il vantaggio di averla con noi. Sir Thomas avallò immediatamente questa dichiarazione, aggiungendo: Verissimo, e non esitiamo a dimostrare quanto la stimiamo, lodandola in sua presenza. Ora Fanny è una compagna molto preziosa. Se in passato siamo stati buoni con lei, adesso lei è assolutamente necessaria a noi. Sì, disse Lady Bertram dopo un po', ed è proprio una consolazione pensare che l'avremo sempre. Sir Thomas fece una pausa, guardò la nipote, sorrise a metà, e poi replicò gravemente: Non ci lascerà mai, spero, finché non sarà invitata in un'altra casa, che potrà ragionevolmente prometterle maggiore felicità di quanta ne ha conosciuta qui. E questo non è molto probabile, Sir Thomas. Chi dovrebbe invitarla? Maria sarà molto contenta di averla a Sotherton ogni tanto, ma non le verrà in mente di chiederle di andare a vivere là, e sono sicura che stia meglio qui. Inoltre io non posso farne a meno. La settimana che trascorse così quietamente e pacificamente a Mansfield Park ebbe un assai diverso carattere alla canonica. O perlomeno nelle signorine delle due famiglie suscitò sentimenti assai diversi. Le ore vissute in tranquillità e distensione da Fanny furono ore di tedio e irritazione per Mary. In parte ciò era dovuto alla diversità della loro indole e delle loro abitudini, l'una così pronta a dirsi soddisfatta, l'altra così inabituata a sopportare. Ma ancor più la cosa poteva essere imputata alla diversità delle circostanze. Sotto alcuni interessanti punti di vista, l'una esattamente opposta all'altra. Per Fanny l'assenza di Edmund, data la sua causa e il suo scopo, costituiva veramente un sollievo. Per Mary, comunque la considerasse, era penosissima. Sentiva la mancanza della compagnia di lui ogni giorno, quasi ogni ora, e le mancava tanto che ne derivava solamente irritazione, tanto più se considerava il fine per cui era partito. Per farle capire quanta importanza aveva per lei, egli non avrebbe potuto architettare nulla di più efficace di quella settimana di assenza, che inoltre coincideva con la partenza di Harry e anche con quella di William Price, completando la dispersione di quella loro comitiva così piena di vita e di brio. Mary risentiva acutamente la nuova situazione. La sua cerchia quotidiana era ridotta a un monotono terzetto confinato in casa da un susseguirsi di piogge e nevicate con niente da fare e nessuna variante da sperare. Per irritata che fosse contro Edmund, che era rimasto fedele alle proprie idee e aveva agito di conseguenza sfidando le sue, e lei se n'era tanto incollerita che alla fine del ballo si erano separati molto freddamente, non sapeva impedirsi di pensare continuamente a lui. Adesso che era lontano, riandava i suoi meriti, ricordava il suo affetto e desiderava ardentemente rinnovarsi dei quasi quotidiani incontri che ultimamente aveva avuto con lui. Il protrarsi della sua assenza era assurdo. Non avrebbe dovuto decidere di restare lontano per tanto tempo. Non avrebbe dovuto star via da casa per una settimana, quando la partenza di lei da Mansfield era ormai imminente. E poi incominciò a biasimarsi. Non avrebbe dovuto parlare con tanta foga nella loro ultima conversazione. Temeva di aver fatto uso di espressioni troppo forti, espressioni sprezzanti parlando del clero. Ecco, questo non avrebbe dovuto farlo. Era stata una mancanza di tatto ed era stato uno sbaglio. Di tutto cuore avrebbe voluto non aver pronunciato quelle parole. Il suo disappunto non ebbe fine con la fine della settimana. Erano stati giorni insopportabili e le toccò sperimentare un rovello peggiore quando giunse un altro venerdì senza ricondurre con sé Edmund. Quando venne il sabato e ancora niente Edmund. E quando la domenica, grazie al formale contatto con l'altra famiglia in occasione delle funzioni festive, seppe che egli aveva scritto a casa differendo il ritorno, visto che aveva promesso di fermarsi alcuni giorni di più dall'amico. Se in un primo momento aveva provato impazienza e rimpianto, se era stata spiacente per le parole che si era lasciata sfuggire e temuto il loro effetto troppo incisivo su di lui, ora rimpianto e timore erano più forti, 10 volte più forti. Aveva, per di più, da lottare con una spiacevole sensazione che le era stata completamente sconosciuta fino a quel momento, la gelosia. L'amico di Edmund, Mr. Owen, aveva delle sorelle. Poteva darsi che lui le trovasse attraenti, ma in ogni caso quel suo star lontano, proprio mentre lei, secondo quanto era fissato da tempo, stava per trasferirsi a Londra, aveva un significato che le era insopportabile. Se Harry fosse veramente tornato, come aveva promesso, di lì a 3 o 4 giorni avrebbe dovuto lasciare Mansfield. Sentì che era assolutamente necessario andare da Fanny e tentare di saperne di più. Non poteva sopportare oltre quello stato di solitaria desolazione e si incamminò verso il park, affrontando nel percorso difficoltà che una settimana prima aveva considerato insormontabili, nella speranza di ottenere alcune informazioni supplementari e per il piacere di sentire almeno pronunciare il nome di lui. La prima mezz'ora della visita andò a vuoto perché Fanny e Lady Bertram erano insieme e se non aveva Fanny tutta per sé, non poteva sperare di riuscire nell'intento. Ma finalmente Lady Bertram lasciò la sala e allora, quasi immediatamente, Miss Crawford entrò in argomento controllando la voce quanto meglio poté. «E che ne pensa?» disse, «del fatto che suo cugino Edmund protragga così a lungo la sua assenza. Poiché lei è la sola persona giovane della famiglia, penso che ne risenta più degli altri. Deve certo sentirne la mancanza. Non la sorprende che abbia deciso di prolungare il suo soggiorno?» «Non saprei», rispose Fanny esitando. «Sì, non me l'ero propriamente aspettata. Forse è una sua abitudine star via più a lungo del preannunciato. Succede, tutti i giovanotti lo fanno. Lui no, quando tempo fa si è recato da Mr. Owen. Ci si trova più a suo agio questa volta. Lui stesso è un giovanotto molto attraente e non posso fare a meno di sentirmi assai spiacente di non rivederlo prima di partire per Londra, come ormai accadrà inevitabilmente. Aspetto Harry di giorno in giorno e appena sarà di ritorno nulla mi tratterrà a Mansfield. Mi sarebbe piaciuto vederlo ancora una volta. Lei dovrà porgergli i miei cordiali saluti. Sì, non c'è qualcosa che manca, Miss Price, nella nostra lingua, un qualcosa che stia fra saluti cordiali e saluti affettuosi, che corrisponda al genere di amichevole relazione che abbiamo avuto, una conoscenza di tanti mesi. Ma nel nostro caso saluti cordiali può bastare. Era lunga la sua lettera, dà molti particolari su quanto fa? È per via delle feste natalizie che si trattiene lontano da casa? Ah, beh, ho sentito leggere solamente una parte della lettera, era indirizzata allo zio, ma credo che fosse molto breve. In realtà, credo che si trattasse solo di poche righe. Tutto quanto ho sentito è che il suo amico ha insistito molto perché si trattenesse più a lungo e che lui ha consentito di restare per qualche altro giorno o per pochi altri giorni, non sono sicura di ricordare le parole esatte. Oh, se ha scritto a suo padre, Avevo pensato che lo avesse fatto a Lady Bertram o a lei, ma se ha scritto a suo padre non fa meraviglia che sia stato laconico. Chi scriverebbe chiacchiere a Sir Thomas? Se avesse scritto a lei ci sarebbero stati più particolari, a lei avrebbe detto di balli, riunioni, le avrebbe descritto tutto e tutti. Quante signorine Owen ci sono? Tre già adulte. Fanno musica? Non saprei, non ho mai sentito niente in proposito. Questa, sa, è la prima domanda che viene in mente a una donna che fa musica personalmente, quando si informa di un'altra, disse Miss Crawford, cercando di apparire allegra e indifferente. Ma è una vera sciocchezza far domande su giovani signore, qualsiasi esse siano, su tre sorelle quasi appena adolescenti, perché si sa, senza bisogno di sentirlo dire, si sa esattamente come sono, tutte molto compite e piacenti e una molto bella. C'è una bellezza in ogni famiglia, è un fatto acquisito. Due suonano il pianoforte e una l'arpa e tutte e tre cantano. O canterebbero se glielo avessero insegnato, oppure cantano meglio ancora perché non sono state istruite in quell'arte o qualcosa del genere. Non so niente a proposito delle signorine Owen, disse Fanny con calma. Niente ne sai, ancora meno gliene importa, come si suol dire. Mai nessuno ha manifestato indifferenza con maggiore evidenza di lei. È veramente. Come potremmo dare importanza a persone che non abbiamo mai visto? Bene, quando suo cugino tornerà, troverà Mansfield molto tranquillo. Tutti gli ospiti rumorosi partiti, suo fratello e il mio e me. Mi spiace l'idea di lasciare Mrs. Grant ora che il momento si avvicina. Lei non vorrebbe che me ne andassi. Fanny si sentì costretta a dire qualcosa. Sa bene che saremo in molti a sentire la sua mancanza, disse. Sì, la sua assenza sarà vivamente sentita. Miss Crawford la fissò intensamente, come se desiderasse udire o vedere qualcosa più di quanto Fanny avesse detto, e poi disse scherzosamente: Oh, sì, sentirete la mia mancanza così come si percepisce quella di uno sgradevole rumore quando esso viene interrotto. Si sente una grande differenza. Ma non sto tentando di farmi fare dei complimenti, non me ne faccia. Se la mia mancanza sarà sentita, lo si vedrà. Potrò essere scoperta da quelli che sentiranno il desiderio di vedermi. Non sarò in una regione di ubicazione incerta, o lontana, o irraggiungibile. Su questo punto Fanny non seppe costringersi a parlare. Miss Crawford rimase delusa, poiché aveva sperato di venire piacevolmente rassicurata circa il proprio potere da una persona che pensava. Doveva sapere come stavano le cose e il suo brio nuovamente perse tono. Le signorine Owen, disse subito dopo, immagini di vedere una delle signorine Owen stabilita a Thornton Lacey, le piacerebbe? Si sono viste cose più strane? Immagino che ci stiano provando e ne hanno piena ragione, poiché sarebbe una bellissima sistemazione per una di loro. Non me ne meraviglio assolutamente, né le biasimo. È dovere di ciascuno provvedere quanto meglio possibile a se stesso. Il figlio di Sir Thomas Bertram è qualcuno e ora si trova in linea con loro. Il padre è un ecclesiastico, il fratello è un ecclesiastico, tutti quanti ecclesiastici. Lui è loro legittima proprietà, appartiene loro di diritto. Lei non parla, Fanny, Miss Price, non parla, ma onestamente dico, non si aspetta che le cose vadano come penso io, piuttosto che altrimenti. No, disse Fanny con decisione, non me lo aspetto affatto. Non se lo aspetta affatto, esclamò Miss Crawford vivacemente. Me ne meraviglio, ma sono certa che lei sa esattamente. Ho sempre immaginato che lei sa, forse pensa che non si sposerà mai? O almeno non per ora? No, infatti non lo credo. Disse Fanny quietamente, sperando di non sbagliare sia in quanto credeva sia nell'ammetterlo. La sua compagna la fissò intensamente e, attingendo maggior coraggio dal subitaneo rossore provocato dal suo sguardo, disse: Sta meglio così com'è. E cambiò argomento.